A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Ladies and gentlemen, the Wimbledon gentlemen singles champion 2012, Roger Federer. Buongiorno, buongiorno. Come avete capito, parleremo di calcio, ma non solo, perché ieri abbiamo celebrato quello che è il miglior tennista di sempre. Claudio Arrigoni per Radio 24, Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia, e celebreremo anche noi Roger Federer. Non potremo fare altrimenti, lo faremo anzi nel migliore dei modi, perché con noi ci sarà la voce del tennis in Italia, ci sarà Rino Tommasi fra poco con noi. Quindi vi ricordo i nostri numeri, anche se vorrete porre qualche questione a Rino Tommasi: 800 24 00 24 per chi vuole mettersi in contatto con noi, 349 238 6666. Non solo calcio, dicevamo, nel giorno del raduno un po' in sordina del Milan, con centinaia di tifosi comunque a Milanello, anche atletica, perché c'è veramente un'esclusione clamorosa per l'Italia dall'Olimpiade, quella di Andrew Au. Ne parleremo con Giorgio Rondelli, capiremo anche che succede ad Antonietta Di Martino proprio poco prima dell'Olimpiade, e poi i motori con i riflessi di ieri in Formula 1 del Moto Mondiale, anche una dichiarazione sibillina di Valentino Rossi che riapre la Ducati. Poi naturalmente parleremo del tour con il nostro Pier Augusto Stagi. Giornata importante, dicevamo, comunque anche per il calcio, perché ieri ci sono state dichiarazioni particolari da parte di Pazzini al raduno dell'Inter. Poi oggi ha parlato Totti, e sappiamo quanto si stia parlando della Roma proprio perché l'arrivo di Zeman ha creato tanta attenzione su questa squadra. A Pazzini ha risposto Moratti, quindi sentiremo anche lui. Anzi, partiamo proprio da quello che ha detto Pazzini ieri. Credo che non è una cosa che dovete chiedere a me. Credo che la società abbia fatto delle scelte, che credo che non farò parte di questo progetto. Questa è una scelta della società. Sì, no, sicuramente io qua sto bene, quindi cercherò di impegnarmi, di far cambiare idea a qualcuno, però sicuramente adesso sono sempre stato sincero e questa è la verità. Pazzini dunque che dice vado via dall'Inter, o forse vuole lanciare solamente un messaggio. Oggi gli ha risposto Moratti, sentiamo cosa ha detto a Sky. Moratti, che ha parlato poco fa, proprio questa mattina, naturalmente prima di entrare nei suoi uffici, ha parlato non solo con Sky, ma in particolare con Sky. Sentiamo. No, non è che ha espresso una volontà, mi sembra che abbia espresso il dubbio di poter far parte del progetto, l'ho trovato anche una cosa abbastanza normale. Mi sembra che però un po' tutto sia un po' una fuga in avanti un po' di tutti in questi giorni qua. No. È dovuto al fatto emozionale, forse, di trovarsi anche per la prima volta in situazione di questo genere. Ma invece poi i tempi sono quelli che sono, Pazzini vedremo quello che si potrà fare. Mi sembra che non ci sia niente di particolarmente drammatico, ma ci sia soltanto un po' di emozionalità in più. Sono tutti giocatori molto validi, lo stesso Pazzini, per cui anzi che ha certamente delle grandi qualità, quindi non sono cose che vengono viste come con la durezza che mi è sembrato venisse fuori dalla dichiarazione di ieri. Moratti dunque che getta acqua sul fuoco, e come potrebbe essere altrimenti, è un mercato questo molto molto al ribasso, nessuno vuole spendere, si parla solo di fine prestiti e poco d'altro, e questo lo ha ricordato anche Totti parlando proprio questa mattina in conferenza stampa. Io spero che non sia un anno di transizione, anche perché conoscendo la piazza non so se aspetta e ha voglia di aspettare un altro anno. Ma loro come noi, anche perché noi tutta la squadra scendiamo in campo per vincere e ottenere risultati importanti, e sapere che quest'anno è un altro anno di transizione non mi va bene a me, ma penso a tutta la squadra e anche alla società. In questo momento non siamo una Roma competitiva come lo è la Juve, il Milan, l'Inter, penso che siamo un pochino al di sotto. Poi da qua ad agosto spero che si facciano acquisti importanti. Allora Totti, che non vuole un altro anno di transizione, vuole acquisti importanti, ma questo, come avete capito e sentito, non mi sembra proprio il mercato giusto per gli acquisti importanti. Totti che Zeman vuole fare giocare anche da esterno, Totti che ha una certa età, ma lo dice lui stesso, l'età non conta, e fa un paragone importante. Io penso che si commenta da solo, anche perché ieri fino al primo tempo sono scappato subito a vedere, anche perché ho visto sul telefono che stava al terzo e quarto set, perciò sono andato a vederlo, anche perché gli avevo promesso che sarei andato a Wimbledon, ma purtroppo il ritiro è iniziato prima e non ho avuto la possibilità. Complimenti, perché è tornato numero uno a 31 anni quasi, perciò vuol dire che l'età non conta, se stai bene fisicamente vuol dire che può fare tutto. Come gioca lui penso che non ce n'è al mondo. 800 24 00 24, per chi vuole mettersi in contatto con noi, 349 238 6666 per i vostri sms. E sì, l'età non conta, come ha detto Totti anche lui a vedersi la finale di Wimbledon, come ha fatto Rino Tommasi. Buongiorno Rino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Mi ha fatto piacere sentire Totti. Sì, hai visto? Quindi... So perché l'ho visto spesso al Foro Italico, so che gli piace il tennis, quindi va bene, insomma... Un appassionato in più, un appassionato di qualità. Sì, di qualità. Su questo non ci sono dubbi, è un appassionato che può portare altri appassionati. Rino, allora, è il più grande di sempre Federer o no? No, non nel senso che il più grande di sempre non esiste. È molto semplice la risposta in questo caso, perché ogni volta che un atleta o un campione compie qualche impresa straordinaria, c'è questa smania di volere a tutti i costi classificarlo il migliore di tutti i tempi, laddove invece il migliore di tutti i tempi semplicemente non c'è. Non c'è perché la storia va avanti e naturalmente non ci si può fermare, e chissà. Io credo che il migliore di sempre non ci sia proprio, non possa esserci, ecco, perché è difficile, è impossibile fare confronti tra giocatori, campioni che sono vissuti e hanno vinto in epoche diverse e in situazioni molto diverse. Sì, è sempre, questo naturalmente è sempre difficile. Poi ci spiegherai magari però una tua personalissima classifica, non dico chi siano i migliori di sempre, ma chi i migliori nelle varie epoche. Rino, prima di andare sul storico, diciamo così, che Wimbledon è stato quello di quest'anno? È stato un buon Wimbledon, aiutato dal tetto, perché se non ci fosse stato il tetto forse chissà quando sarebbe finito il torneo. Però per fortuna 3 anni fa lo hanno costruito, per 2 o 3 anni non l'hanno quasi neanche adoperato, però quest'anno è stato fondamentale, ha consentito lo svolgimento e soprattutto la conclusione del torneo nei tempi previsti. Senti, ti faccio ascoltare questi 30 secondi che credo chiunque ha visto dopo la finale, visto e sentito, si sia molto emozionato. I'm getting closer. Can I just take it? Sorry. Right, I'm going to try this and it's not going to be easy. E insomma, l'emozione per questo ragazzo, Rino, devo dire, deve essere stata enorme. Sai, gli inglesi... Stiamo parlando di Murray, naturalmente, scusa. Sì, sì. Noi diamo per scontato che tutti conoscano Wimbledon. Gli inglesi non vincevano questo torneo da una vita, insomma, e quindi aspettavano questa occasione. Devo dire che Murray se l'è giocata anche bene, ha giocato secondo me una delle sue migliori partite, non è stato abbastanza perché dall'altra parte c'era Federer. Eh sì, probabilmente quella e quel Federer, il Federer che voleva vincere il suo settimo Wimbledon e con questo è sicuramente, era già nella storia, è entrato probabilmente anche nella leggenda. Saluti al grande Tommasi, mi mancano le sue telecronache, quelle del pugilato erano fantastiche, mi ricordo un Agler Mugabe mitica, Lori da Milano ce lo scrive al 349-238-6666 fra le altre cose che naturalmente stiamo ricevendo. Un po' di domande che ti arrivano anche dai nostri ascoltatori. Uno ricalca un po' quello che hai detto all'inizio, ma quale miglior tennista di sempre? Gioca, si riferisce naturalmente a Federer, a quelle che abbiamo detto un po' di inizio trasmissione, gioca in un'epoca in cui ci sono tre tennisti bravi, il resto dei top 20 di oggi negli anni 70-80 al massimo avrebbero fatto fatica a comparire nei top 100, questo mi sembra un po' esagerato. Non ne sono sicuro. No, infatti. E non sottoscrivo. No, no, in questo mi sembra sicuramente... Però ognuno ha diritto alla sua opinione. Beh, assolutamente, soprattutto in questo campo, nello sport, poi opinioni a mille. Federer... Io qualche anno fa mi ricordo, dopo una partita qui, si era già scritto allora che Federer forse era il migliore di tutti i tempi, e io mi permisi di scrivere che come facevamo a dirlo se non eravamo nemmeno sicuri che fosse il migliore della sua epoca, visto che al momento Nadal erano più le volte che vinceva, certo, di quelle che perdeva contro Federer. Però forse adesso questo almeno possiamo dirlo, Rino. No. Non ne sono sicuro, non ne sono sicuro, anche perché poi ci sono Djokovic che non lo si può scartare, e poi chissà, magari ne nasce qualcun altro, speriamo. Senti, ancora una domanda che ti arriva naturalmente dai nostri ascoltatori, dice: Federer non sta snaturando la sua natura di attaccante legandosi troppo al palleggio da fondo, così da Nadal perderà sempre. È vero, l'osservazione è corretta, è giusta, ma credo che ci sia proprio una involuzione del tennis, cioè ormai il gioco di volo è quasi scomparso. Cioè, anche ieri la partita si è quasi esclusivamente giocata da fondo campo, anche perché insomma, i giocatori hanno capito che se vanno a rete vengono infilati come tordi. Quindi dici che questa è comunque questo sarà il tennis del futuro? Purtroppo sì, e quindi ci sarà un tennis probabilmente meno divertente, perché è chiaro che il gioco di volo rende lo spettacolo migliore, e quindi andiamo perdendo qualche cosa, ecco. Ma d'altra parte sembra che questa sia una linea difficile da variare o da modificare. Massimo da Treviso, sempre al 349-238-6666, non hai idea di quanti sms stanno arrivando, ma naturalmente tu sei a Londra, quindi non ti terremo poi così tanto, però sono veramente moltissimi. Dice: potete chiedere a Rino Tommasi un confronto fra Federer e Laver? Siamo in paradiso, capisci? Cioè, voglio dire, sono eccellenze, però come fai a dire che uno è più bravo dell'altro, considerato che sono passati, dunque Lever ha vinto negli anni 60, all'inizio degli anni 60, Lever ha vinto 11 tornei ha vinto tanti tornei del Grande Slam, ma per 5 anni non ha giocato i tornei tradizionali, perché a quell'epoca i professionisti non potevano giocare. Quindi il libro d'oro dei grandi tornei del tennis non dice la verità. Pensa che uno come Ken Rosewall, vero, che ha vinto 8 tornei del Grande Slam, per non ne ha giocati 44, lui è rimasto, certo, 11 anni senza poter giocare i tornei tradizionali, 4 tornei ogni anno fanno 44 tornei, e quanti ne avrebbe vinti Rosewall se li avesse potuti giocare? Assolutamente, certo, queste sono, ma proprio per questo le chiediamo a te, Rino, queste cose. Essendo vecchio sono costretto ad avere memoria. A quanti Wimbledon sei arrivato, Rino? Sono arrivato a 44. Ah però. Vabbè. Vorrei anche continuare, però tra l'altro torno per le Olimpiadi, quindi. Ah, beh, che si giocheranno naturalmente su quei campi, quindi... Su quei campi, ma con una formula diversa, perché si giocherà 2 set su 3, e il tennis 2 set su 3 o 3 set su 5, non dico che sono due sport diversi, ma quasi. E cambia molto, l'hai scritto anche il tuo commento sulla Gazzetta dello Sport, ci spieghi perché, Rino? Beh, perché innanzitutto la durata ha una sua importanza, cioè la componente atletica quindi diventa più importante, sul 3 su 5, il 2 su 3 è un'operazione più rapida e quindi richiede meno al fisico, rispetto, anche se naturalmente certe qualità di tenuta mentale sono ugualmente importanti. Rino, non è che riducendo la distanza, certo, cambia molto, sempre tennis è, ecco. Però secondo me è un aspetto curioso questo di questo torneo olimpico che arriva a ridosso del torneo di Wimbledon. Rino, ti arriva questo sms al 349-238-6666 da Mauro, che dice: Tommasi e Clerici mi hanno fatto prendere non so quante materie a settembre, quindi sei un po' responsabile. Ogni pomeriggio da aprile in avanti era dedicato a loro, vabbè, quindi a questo punto magari... Lo devono chiedere a Sky. A Sky o a qualcun altro che naturalmente si faccia avanti con voi due, perché non arrivano molti sms di quanto sia... la vostra coppia di telecronisti manchi al tennis e allo sport. Che mi dispiace è che i miei più giovani colleghi di Sky sono rimasti a commentare il torneo a Milano ed è tutta un'altra cosa, quindi cresceranno di meno secondo me. Naturalmente essere sui posti come hai fatto tu 44 volte Wimbledon, credo che sia un record difficilmente battibile, Rino. 157 volte negli Stati Uniti, se ci mettiamo in mezzo altre cose come il pugilato, quindi purtroppo ho passato molto del mio tempo in aereo, però si impara, Sì. Si impara. Ed è questo che non capiscono i dirigenti di Sky, che dovrebbero far migliorare i loro giornalisti mandandoli in giro un po' di più. Ma questo credo che vada a comuni moltissimi degli editori odierni, Rino, non soltanto quelli di Sky. Non dico di no, forse io ho avuto la fortuna di avere avuto o direttori o diciamo editori un po' più lungimiranti, ecco. Quindi sono stato fortunato in questo senso. E fra l'altro sono stato fortunato anch'io, perché posso dirlo, anche se interessa poco o nulla, ma ti ho avuto come direttore per tanti anni ed è stata una delle esperienze più belle professionalmente parlando della mia vita. Ancora un altro sms sempre che è arrivato al 349-238-6666 per te, non te li posso leggere tutti, sono veramente moltissimi, però diceva Paolo da Verona: Tommasi è prevenuto su Federer, si vede che è ancora innamorato di Edberg. Che io abbia avuto un buon rapporto personale, una grande ammirazione per Edberg è verissimo, tant'è vero che quando lui una volta ha vinto Wimbledon e io avevo scritto 5 anni prima: se questo ragazzo non vince Wimbledon entro 5 anni smetto di scrivere di tennis. Quando lui finalmente ha vinto Wimbledon ha detto, grazie per la fiducia, però ho salvato il tuo lavoro, mi ha detto, però thank you for the confidence, ma dice grazie per la fiducia. Ma ho sempre avuto un buon rapporto con Edberg. No, effettivamente, fra l'altro, Edberg, anche qui da alcuni sms che arrivano, si sente la mancanza anche di giocatori di questo tipo. È vero che il tennis è non solo è cambiato, ma in qualche caso è un po' sceso di livello, Rino? Più semplicemente, è meno divertente. Sì. E quindi meno spettacolare, meno vario. Ermanno ci scrive: giocano quasi tutti nello stesso modo, ecco. Caro Rino, ecco, parlando di uno che giocava in maniera molto diversa, il più grande di sempre sarebbe stato Agassi se avesse avuto una testa diversa negli anni della sua gioventù. No, guarda che la testa di Agassi è stata giudicata male per un po' perché è nato a Las Vegas, e guarda che è difficile nascere a Las Vegas, Prendila come vuoi questa battuta, ma insomma però se tu parli con Agassi, pochi giocatori come Agassi sono in grado di ricostruire una partita nei suoi momenti, cioè lui ha una testa che funziona molto bene. E beh, probabilmente a quei livelli non puoi stare se non... Come si conciava, eccetera, ha fatto pensare che a una persona diversa, però Agassi è uno molto intelligente. non sarebbe stato a quei livelli, probabilmente, Rino, credo che sarai d'accordo con me da questo punto di vista. C'è un ascoltatore che ha scritto, a parte chiedendo quali sono i tornei dello Slam, allora andiamo più avanti, 44 Wimbledon e lo Slam, Rino, quanti? 139. Claudio Arrigoni per Radio 24, a tempo di sport con Franco Piantanida in regia, Matteo Comes, Franco Piantanida in redazione. Siamo insieme a Rino Tommasi, 800 24 00 24, per le vostre chiamate, 349 238 6666 per i vostri sms che stanno veramente inondando il computer qui della redazione. Tommasi sta al giornalismo sportivo come Montanelli stava al giornalismo non sportivo. Vi scongiuro, dite a Rino che per noi qualsiasi sua cronaca è sempre stata a circoletto rosso sul nostro personalissimo cartellino. Per favore, penso di interpretare il sistema, il pensiero di tutti, e sono tante, caro Rino, sono tanti gli sms che arrivano al 349 238 6666 con parole di questo tipo. Penso che questo ti faccia piacere, eh? Non, di solito si dicono dei morti queste cose, come ha scritto un altro sms, ma invece noi lo diciamo di un vivo e molto vegeto. Oddio, sul vegeto possiamo discutere. Senti Rino, prima di lasciarti andare e ringraziarti per il tempo che hai dato a noi, volevo chiederti due cose che riguardano naturalmente anche la box. Molti che scrivono che mancano anche le tue telecronache di box. Una di queste, Aldo dice la sesta ripresa di Hagler Mugabe è la tua telecronaca migliore di sempre? Forse perché era lo spettacolo migliore di sempre. Allora è facile fare una buona telecronaca quando lo spettacolo è di livello, e quindi io credo appunto di aver dato nel pugilato il meglio, perché ho avuto la possibilità e la fortuna di commentare degli ottimi incontri. Un saluto al grande Rino, compagno di nottate di grande box, ma fra Hagler e Leonard chi secondo lui era il più forte? il più forte, a me piaceva di più Hagler, però Leonard gli ha confuso le idee, perché Hagler soffriva, aveva un po' di complesso per i giocatori, per i pugili che lui considerava un po' aiutati dalla fortuna o dalla sorte, ecco. Rino, qual è il valore dei Klitschko? Ci chiede un altro ascoltatore. Mediocre. Cioè sono due buoni atleti, sono due buoni pugili, ma non hanno coraggio. Cioè, hanno paura, via, detto in parole povere, e non lo si dovrebbe dire di nessun pugile, perché sennò uno non fa il pugile se ha paura, però non hanno il cuor di leone, tant'è vero che le sconfitte che hanno subito lasciano qualche interrogativo sul loro valore assoluto. Rino, non ti leggo naturalmente tutti gli sms che stanno arrivando con tutte le domande, però voltiamo ancora pagina un attimo. Il calcio, sì. È un mercato, questo io riesco a parlarne anche poco, perché francamente è un mercato che non dà emozioni, e forse non so se fatto in questa maniera le potrà mai dare, però malgrado questo, diciamo, sono sempre quelle tre lì davanti, Inter, Juventus e Milan. È quello il grande problema del calcio, se consideriamo che il 78% degli scudetti li hanno vinti le squadre di due città, capisci che quindi se lo paragoniamo, non so, a certi campionati dello sport americano, parlo del football o anche di altre discipline sportive e di altri paesi, io credo che non sia un bene per il calcio che rimanga diciamo circoscritto a poche città o a pochi club. D'altra parte, in uno sport professionistico, se i più ricchi non sono scemi, vincono sempre loro. Rino, un'altra cosa, tu sei sempre stato un amante della tecnologia anche applicata allo sport. Per la prima volta c'è stata un po' un'apertura per questi gol non gol, insieme comunque ai giudici di porta. Tu invece di questo so che sei un po' scettico, cosa ne pensi? Sono molto scettico, perché tutto sommato, cioè la storia del calcio, Sì, è vero che io mi ricordo una finale, quella del 66, dove la Germania segna, sì, e l'Inghilterra segnò un gol con un pallone che non è mai entrato. Però io credo che la storia del calcio non sia stata falsata da questo, ecco, perché se consideriamo che una partita l'arbitro fischia, non so, 50 o anche di più fuori gioco, e sul fuori gioco non c'è possibilità di intervento da parte della tecnologia, poi vediamo che l'importante secondo me è avere buoni arbitri e avere un ambiente che sia più che accetti più volentieri o più serenamente le decisioni degli arbitri. Per chiudere, Rino ti fa una domanda, Fabrizio, di calcio: quanti palloni d'oro avrebbe dovuto ricevere secondo te Franco Baresi? Ma qua rientriamo in un argomento che riguarda... Il pallone d'oro è un riconoscimento individuale in uno sport collettivo, dove i valori individuali si confondono e non sempre dicono la verità, ecco... Calcio è uno sport collettivo e allora io premierei più volentieri una squadra, quella squadra di quel periodo, ecco, piuttosto che un singolo giocatore. Dopodiché naturalmente la mania delle classifiche, io adesso mi esce un mio libro tra qualche giorno che è intitolato Maledette classifiche. Ah, detto da te però. perché io sono, è tutta la vita che sono alle prese con le classifiche, perché inevitabilmente nello sport la classifica è fondamentale, però bisogna saperla interpretare, bisogna saperla compilare. Rino, maledette classifiche, quindi quando lo troviamo, perché sicuramente non potrà mancare. Tra qualche giorno. Allora ci risentiremo comunque fra qualche giorno. Elimina editore. Ti faccio però prima di chiudere farti fare una domanda da uno degli ascoltatori che hanno chiamato, Luigi da Napoli. Buongiorno Luigi, abbiamo con noi Rino Tommasi. Sì, buongiorno, grazie dell'onore. Più che una domanda vorrei fare tanti complimenti e ricordare un episodio, diciamo, di casa mia. Mio figlio, che adesso ha 19 anni, qualche anno fa assisteva a una delle ultime telecronache del maestro e di Gianni Clerici e si lamentava, imprecava perché non affidassero a lui le telecroniche di tutti gli incontri di tennis. E ancora oggi, ieri ad esempio, perché Bertolucci comunque avesse tutta la nostra simpatia, mi chiedeva perché non affidassero ancora al grande Rino Tommasi quelle telecroniche. Credo che la grandezza sia questa, non solo per noi più grandi nostalgici, io ho 50 anni, ma anche dai ragazzini, da un ragazzino che a 14-15 anni assisteva a una delle prime telecroniche, riusciva a recepire con immediatezza la grandezza di questi due grandi professionisti. Grazie Luigi. Io posso solo ringraziare. Ma credo che Luigi interpreti il sentimento un po' di tutti. Io ho avuto anche l'onore, oltre che il piacere, di essere direttore dopo di te e a Telepiù e di essere con te naturalmente a Telepiù, e devo dire che questo era anche il sentimento di tutti i nostri abbonati e di allora. Ti lascio con queste parole: Rino, un uomo, un mito, grande Rino, quanto ci manchi, ma che grande puntata questa con Rino Tommasi. Rino, per l'uscita del tuo libro ci devi promettere, so che sei stato più del tempo che ti avevo richiesto, ma ci devi promettere di essere ancora con noi qui a Radio 24. Allora, ma io torno stasera in Italia, ma tra due settimane torno a Londra per le Olimpiadi e poi spero che ci sia ancora qualcosa per me in giro. non dubitiamo di questo. Grazie Rino, grazie ciao, davvero, Claudio. Buon ritorno. Grazie a te. Sento la mancanza di Rino Tommasi in TV, Wimbledon lo reclama, grazie. Questo è un altro degli sms che sono arrivati al 349-238-6666, mentre il nostro numero verde 800-24-0024, davvero sempre bello parlare di sport con uno dei più grandi giornalisti di sempre in Italia riguardo allo sport, e naturalmente è Rino Tommasi. Torniamo un attimo sul calcio, prima di poi passare all'Athletic e andare a vedere gli aggiornamenti per quanto riguarda il Tour de France. Uno dei grandi giocatori italiani è sbarcato al di là dell'oceano, stiamo parlando di Nesta, e ha rilasciato le sue prime parole a Montreal. Buongiorno, I speak Italian for two weeks And after 2 weeks, I try to speak English. Sorry, or French, I don't know. È venuto tutto molto velocemente. Ero a Miami con la mia famiglia e sono venuto a vedere la prima partita di Marco Di Vaio a Montreal. E qui ho incontrato Nick e Joey. Ho parlato con loro di calcio. Mi è piaciuto come pensano, come vogliono fare in futuro. Perciò abbiamo parlato poco, il giorno dopo sono venuti a Miami e abbiamo fatto, perché credo che questo qua sia un posto buono per far calcio. Uno dei grandi che ci ha lasciato, non ha lasciato il calcio, giocherà a Montreal. Nick è naturalmente il proprietario della squadra di Montreal, che, dove giocherà insieme a Di Vaio anche Nesta. Abbiamo anche qualche parola di Moratti su Julio César, proprio perché sappiamo quanto sia difficile la posizione nell'Inter per il portiere brasiliano. Ah beh, senza dubbio, no, ma io dico, ma per forza sono grati e siamo grati a questi giocatori. Poi c'è un'evoluzione nelle cose, ma voglio vedere, mi dispiacerebbe che si pensasse il contrario. Bene, questo Moratti su Julio César, e poi andiamo a sentire anche, abbiamo sentito all'inizio Totti che parlava di questa Roma, andiamo a sentire sul confronto fra Zeman e Enrique. Sono due tipi diversi di giocare, Mister Enrique gioca più orizzontale e il Mister Zeman vuole più un verticale, perciò penso che per noi attaccanti giocare in verticale è la cosa migliore. Abbiamo più possibilità di fare gol e hai più possibilità di creare azioni a gol. E poi con Mister Zeman penso che 80-90 gol a fine anno li fai, perciò qualcosa di importante lo costruisci. Non è che vado contro Luis Enrique, perché io mi sono trovato benissimo con Luis Enrique. 80-90 gol per la Roma. Zeman ha portato entusiasmo a Pescara, ha fatto cambiare anche quello che era il campionato di Serie B l'anno scorso, almeno lo spettacolo portato anche in Serie B. Zeman è uno che fa correre le squadre, e lo chiedo anche a Giorgio Rondelli. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Sergio. Ti dicevo, Zeman è uno che fa correre le squadre, e ho visto che qualcuno si è già cominciato a lamentare. Non Totti, devo dire, oggi ha parlato molto bene, come hai sentito anche adesso. Ma guarda, io ricordo un po' di anni fa, io andai a fare un'intervista a un certo Shalimov, che era passato dal Foggia all'Inter, e quando gli nominai Zeman, come se gli avessi parlato del diavolo dell'acqua santa. È stata una partenza un po' sordina, mancano i big, quindi abbiamo tempo nei prossimi giorni di parlare un po' meglio del Milan. Oggi sarebbe stato un parlarne con un basso profilo. Alto profilo invece quello di Giorgio Rondelli per parlare di questa esclusione eccellente: non ci sarà alle Olimpiadi Andrew Au. Ma guarda Claudio, io su Andrew Au, per approfondire il personaggio Andrew Au, sulle sue vicende degli ultimi 8-10 anni ci vorrebbe una trasmissione a tema. Io penso che questa esclusione, allora ricapitolando al volo, lui fra i mille problemi che ha avuto negli ultimi anni, operazioni al tendine d'Achille della gamba sinistra di stacco l'anno scorso, poi una rieducazione, tutto filato bene, fino al rientro agonistico, e poi è stato disastroso, un 7-15 a Doha, nel salto in lungo, ricordiamo che lui ha un record di 8-47, e poi un 200 metri a Ginevra, dove lui si è fermato per problemi muscolari. E poi è rientrato pochi giorni fa con un 20-85 ad Aosta, e qui ieri a Bressanone, ultima data utile perché con mezzanotte scadevano i termini per fare i minimi, ricordando che però lui il minimo A ce l'aveva, perché lui aveva fatto 20-31 l'anno scorso. La federazione, secondo me, che questa federazione agisce un po' troppo per protocolli un po' prestabiliti, senza guardare un po' poi alle situazioni caso per caso, avrebbe dovuto fare il minimo B, cioè almeno il minimo B, cioè 20-65, tant'è che ieri Reolo era negativo, quindi lui in batteria ha spinto, ma aveva 4,5 metri di vento contro, 21,03. In finale 1,9 di vento contro, ha fatto un 20,76, che di pratica lo esclude, però per criteri prestabiliti all'interno della federazione, non è che lui a livello internazionale non avesse il minimo. Poi consultazioni con il col CONI e quant'altro, e beh, comunque lui poi ha rinunciato anche a voler far parte della staffetta, quindi ai raduni di questo mese e con l'audi con la staffetta, e poi è stato fuori. Aggiungo anche perché poteva nascere un contenzioso, perché altri atleti che avevano situazioni simili alle sue, cioè avere un minimo che gli dava il permesso di gareggiare e un secondo minimo o una conferma non ottenuta sul campo e quindi esclusi dalla federazione, avrebbero potuto impugnare, insomma, comunque creare dei problemi rivolgendosi addirittura magari anche al TAS. Totale, diciamo, l'uomo simbolo, uno dei nostri pochi uomini simbolo dell'atletica azzurra, ancorché plurinfortunato negli ultimi anni, resta a casa. E alcuni dei nostri ascoltatori che si scrivono, oltre alla pubblicità, cosa ha fatto AU negli ultimi 5 anni per essere considerato escluso eccellente? Beh, io la penso un po' come Fausto Narducci, che scrive oggi sulla Gazzetta dello Sport: comunque è la bandiera della nostra atletica, meritava forse una deroga olimpica, un altro, ma non è un po' sopravvalutato questo AU, abbiamo detto. Giorgio, una cosa che vogliamo chiederti invece riguarda Antonietta Di Martino, la potremo vedere a Londra? Ma Antonietta Di Martino, direi che, Claudio, ne sapremo di più domani a Pavia il dottor Benazzo farà un controllo, un check-up, così, per vedere a che punto è. Lei si è avuto un infortunio muscolare nel mese di aprile mentre era in allenamento alle Canarie. Calcolando che sono passati 3 mesi, direi che c'è da essere parecchio preoccupati per 2 motivi. Uno, anche gli infortuni in passato, ho avuto anche diversi infortuni. 2, l'età, insomma, va per i 34 anni. 3, anche la sua complessione fisica particolare, è un atleta che con il suo 1,69 si è arrampicata fino a 2,04, ma tramite un salto molto, molto articolato, tecnicamente eseguito al 100%, grande velocità di entrata, grande gestione del corpo sulla sticella. È chiaro che, Claudio, se lei è solo un attimo meno fisicamente a posto, non ha forse quei margini che ha magari una Vlasic che è alta 1,92, certo. E così, quindi certo. Almeno la federazione addirittura potrebbe convocare la nostra giovane promessa Alessia Trost, se salterà 1,95 ai prossimi mondiali che ci saranno a Barcellona, penso da domani. Quindi 2 grosse carte che al momento mi sembrano tutte e due abbastanza out. Sì. Grazie Giorgio, grazie, ci ritroveremo magari nei prossimi giorni proprio per commentare anche in vista delle Olimpiadi di Londra come sta la nostra atletica. Certo, una spedizione azzurra senza AU e senza la Di Martino, secondo me, insomma, spiace un po' vederla. Voltiamo pagina, grazie a Giorgio Rondelli, perché dobbiamo capire un po' come sta andando il tour. Piero Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Claudio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, come sta andando questo cronometro? Ma intanto il miglior tempo è di Tony Martin, che ha coperto gli 81 km e mezzo in 53 minuti e 40 secondi. Dobbiamo aspettare soprattutto gli ultimi che sono poi in realtà i primi in questo caso, come in tutte le cronometro, e che sono appunto Cadel Evans, Brad Wiggins, che oggi si giocheranno una buona fetta di questo Tour de France, e noi siamo trepidanti di sapere come andrà Vincenzo Nibali, che cronoma non è, però è migliorato abbastanza in questo ultimo anno e mezzo, ha lavorato molto questo inverno, ha fatto un buon prologo a Liegi in questo Tour de France, al momento è terzo in classifica generale a soli 16 secondi dalla maglia gialla, e deve oggi a tutti gli effetti cercare di perdere il meno possibile per poi cominciare a giocarsi tutto da mercoledì, quando cominciano le Alpi e quindi quando questo tour prenderà definitivamente quota, perché andrà proprio in quota appunto oltre anche i 2000 metri. Grazie Piero Augusto, naturalmente tutti gli aggiornamenti nei nostri radiogiornali di Radio 24 e poi ci troveremo naturalmente nei prossimi giorni con Piero Augusto Stagi per questo Tour de France e forza Nibali, naturalmente buon tour Piero Augusto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, vi dovevo anche una dichiarazione, avevo accennato all'inizio, di Valentino Rossi, perché è una dichiarazione che è importante, riapre alla Ducati dopo che si è detto che c'era stato un periodo molto tiepido fra Rossi e la Ducati. Sì, sembra che sì, ci ho parlato, quelli dell'Audi sono molto interessati a continuare e a fare qualcosa di buono, a aiutare la Ducati nei prossimi anni a tornare competitiva, ecco, quindi è un progetto ambizioso che a me mi fa molto piacere. E farlo con te? E farlo con me. Progetto ambizioso dunque, Valentino Rossi quindi che riapre alla Ferrari, ieri anche Gran Premio di Formula 1, Alonso che è arrivato secondo, sentiamolo sulla gara. Abbiamo utilizzato all'inizio le gomme che erano più performanti, diciamo, abbiamo aperto un gap e alla fine sapevamo che quel gap spariva con le gomme un po' meno performanti. Purtroppo non abbiamo stato abbastanza veloci nella prima parte, forse aprire più gap, però è stato così, loro hanno fatto un buon lavoro e comunque contento, felice di come è andato il weekend in generale, un weekend molto tricky, molto difficile, con delle condizioni abbastanza estreme, soprattutto ieri, e abbiamo finito con 18 punti che portiamo a casa molto, molto orgogliosi. E abbiamo finito anche noi a tempo di sport, grazie a Franco Piantenida in redazione, a Matteo Comes in regia, vi lascio a Destini Incrociati, a tempo di sport torna domani alle 14:00.